Oh, questo è il mio primo tentativo, diciamo, di podcast da mettere su internet. È appunto un tentativo per vedere di cosa si può fare. Sì, esatto. Allora, di cosa parliamo? Parliamo del Palermo, appunto, del nostro Palermo che domenica praticamente andrà a giocarsi l'accesso al turno preliminare di Champions League contro la Sampdoria. Partita veramente molto molto sentita questa, da giocare proprio con il coltello fra i denti per conquistare un accesso storico al turno preliminare. Sì. Dice, ma tu non vai direttamente in Champions, vai direttamente al turno preliminare. Però da meno uno ci può provare al turno. Invece così niente. In ogni caso, anche se usciremo, andremo in Europa League. Anche se usciremo a turno preliminare, incontreremo una squadra veramente molto forte, la Samp. Una squadra che, oltre ad avere un discreto collettivo, ha anche delle ottime individualità. Se il Palermo è più, come dire, sbarazzino, più, come dire, più spettacolare, la Samp è molto più concreta, più cinica. Sono due squadre che secondo me meriterebbero tutte e due di andare in Champions. Veramente, ma purtroppo ci va solo una. Sarà un grande duello, un duello Miccoli contro Cassano. Questo è il duello della partita, il duello principe. Poi però ci saranno anche altri duelli, per esempio il confronto dei due portieri, Solari, che secondo me è uno dei portieri più sottovalutati del calcio italiano in assoluto. Secondo me è un ottimo portiere, non capisco come mai il Milan se lo sia fatto scappare, lo abbia ceduto. Cioè, con quel morto di Dida e con quell'altro, come dire, quell'altro morto di Roma, Abbiati che non è più come prima, secondo me Solari sarebbe veramente un ottimo portiere, secondo me Solari. Cioè, senza alcun dubbio. E poi abbiamo Sirigu, che è la nostra rivelazione, l'uomo lanciato da Walter Zenga. Un portiere che, oltre ad essere un portiere che abbina anche un modo spettacolare, è un portiere molto concreto, non è un portiere solo di svolazzi, come dire. È veramente un ottimo portiere. Poi nella giornata appunto di Serie A ci saranno altre partite che io ora in questo momento non ricordo, però mi sembra sì, un Inter-Chievo, praticamente l'Inter ha la possibilità di vincere lo scudetto, la Roma mi sembra giochi dentro casa contro il Cagliari, che ormai non ha più nulla da dire praticamente al campionato, quindi si risolve tutto all'ultima giornata, con l'Inter che andrà a Siena e la Roma che andrà a Verona contro il Chievo. Chievo che quindi sarà l'artefice di questo scudetto, sarà l'arbitro il Chievo. No, non dico di dire che la Roma se lo meritava, però sinceramente la Roma ha fatto veramente una grande, grande, grandissima rimonta. Una rimonta che nessuno, e dico nessuno, credeva che potesse essere fatta, una rimonta pazzesca. La Roma nelle prime due giornate aveva racimolato solo 0 punti la Roma. Ora invece è stato un passo dallo scudetto. Purtroppo proprio la Samp ha frenato la corsa scudetto di Iumi di Ranieri, che altrimenti erano lanciatissimi. Vorrei fare anche un altro appunto sulla partita che si è vista ieri tra Inter e Lazio, giocata all'Olimpico, dove praticamente i tifosi laziali volevano che la Lazio perdesse per non dare lo scudetto alla Roma, e questo è successo in poche parole. Secondo me, oltre che è stata una pagina veramente poco bella per chi guarda il calcio italiano da fuori, però dobbiamo anche metterci nei panni dei tifosi laziali, che si sarebbero visti vincere la Roma lo scudetto. Quindi non dico un anno di sfottò, però sarebbe stata un'aria pesante nella capitale. Noi non sappiamo cosa avrebbero fatto i romanisti, non possiamo saperlo. I romanisti ora si proclamano innocenti, salvatori dell'onore del campionato, però non sappiamo cosa sarebbe successo a parti invertite. Possiamo fare solo delle ipotesi. Comunque, quella di ieri è stata una partita che, una non partita, più che una partita. Diciamo che la Lazio ha giocato in modo, come dire, in modo, ma manco c'è, non si trovano le parole per questa partita, sinceramente. Non si trovano le parole. Ma comunque, come si suol dire, non c'è poco da dire, come si suol dire su questa partita. Anche gli striscioni dei tifosi laziali. Vabbè. Comunque, concludo questo piccolo mini podcast di 5 minuti scarsi. Non non so se ci sono altre puntate. È un esperimento. A risentirci.